Easy Pop è lieta di presentarvi la nuova rubrica Le interviste di Easy Pop, un programma ideato e a cura di Franco Paoletti con la regia del Bolognese Volante. Puntata numero 6. Franco Paoletti intervista Alessio Del Freo. Un buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nostro salotto virtuale che è Easy Pop, questa sorta di spin-off in cui voi ci seguite sempre fedelmente via web. Insieme a Franco Paoletti che vi sta parlando, quest'oggi abbiamo l'onore di ospitare un cantante, ma che poi non è neanche un cantante, è un cantante sì, però ha anche delle altre attività, è diventato un blogger, per questo ho detto non è un cantante, adesso ci faremo ben spiegare, da Alessio Del Freo, che praticamente abbiamo così invitato quest'oggi a Radio Città Fujiko. Vediamo se è in linea. Eccomi, ciao. Ci sono, ciao a tutti, benvenuti. Ciao. Ciao, allora, io sono abituato alla tua voce fresca, eccetera, proprio perché ti conosco e ti seguo molto nel web e quindi ti sei un po' dato a questa, questa attività rispetto al cantante, ma tu nasci come cantante, vero Alessio? Diciamo che nasco un po' in tutti e due i modi, perché quando iniziai a fare la musica, iniziai anche a fare la radio, perciò iniziò insieme questa attività. Ecco, diciamo ai nostri ascoltatori che ti conoscono poco, tu sei presente nel web, però facciamo una tua scheda certo. Identitaria, insomma, per capire. Allora, da Firenze tu parti e parti dal mondo musicale in realtà, perché hai inciso appunto in questi anni e poi però cos'è successo? È successo dall'inizio, vuoi saperlo? Sì, cosa è sì, successo? Facciamo un... No, è successo inizialmente, cioè partiamo dal presupposto che la passione è quella per la musica in assoluto, no? Sì. Quindi sia musica fatta, cantata o scritta, sia musica raccontata, perché la mia grande passione per questa arte non ha limiti, perciò io mi interesso della musica degli altri, anche non solo della mia. È una cosa, una grande passione che ho da sempre, mi interessano i dischi, voglio vedere le uscite, mi interessano le manifestazioni, sono molto appassionato, quindi già partiamo da questa base, no? Della passione. Sì. Okay. E poi, la passione l'ho sviluppata in varie direzioni, come interprete, come cantautore, ma anche come presentatore, diciamo, anche della musica stessa, iniziando a fare radio fin da quando ero piccolino, perché avevo 16 anni quando ho iniziato, e poi presentando manifestazioni, insomma, io la faccio in varie direzioni questa attività. Sì, certo, diciamo che hai iniziato un po' così per le prime esperienze che si fanno solitamente, dalla radio sei passato anche alla musica, perché poi hai inciso dei brani, anzi ti abbiamo visto sì. Alcuni video, però hai affiancato questa tua capacità anche di elogiativa, insomma, poi la tua presenza fisica, perché hai una certa presenza fisica, quindi hai iniziato proprio a entrare nel mondo musicale, no? Giustamente. E sì. E quindi diciamo tu sei veramente un indie, no? Perché poi hai cominciato con la musica, però poi ti sei hai anche preso altre direzioni, quindi giustamente hai conosciuto anche personaggi nel mondo dello spettacolo e tu sei praticamente un addetto ai lavori, giustamente. Sì, possiamo dire che sono veramente un addetto ai lavori, ora più che mai addetto ai lavori, sì, è vero, assolutamente certo. Vero. Perché poi, a parte tutte le tue esperienze di cantautorato, eccetera, hai iniziato questa nuova forma appunto di comunicazione che è molto curiosa. Dunque, hai iniziato con un piccolo seguito, con appunto alcuni filmati via web, dove tu appunto facevi delle biografie, se non sbaglio, dei nostri cantanti, insomma. Sì, sì. La prima volta ho iniziato con un musicista che ho fatto un blog postumo, è stato diciamo il primo blog che ho dedicato e poi da lì ho iniziato a parlarne, ecco, non solo a cantarle, perché io inizialmente sul canale YouTube avevo iniziato a fare la storia degli artisti o la storia delle manifestazioni ricantando i pezzi, quindi raccontavo la storia cantandola, poi mi è venuto in mente anche di raccontarla proprio parlandola, perché secondo me ci sono delle persone che amano molto questo tipo di, come posso dire, insomma, amano molto vedere anche la storia raccontata, no? Sì, anzi, Sapere. c'è bisogno proprio di questa memoria storica, vero? Dunque, la memoria storica, ascolta, io ce l'ho in parte mi documento continuamente perché sono uno che, prima di tutto lo faccio per abitudine di documentarmi, no? E poi perché davvero sarebbe impossibile riuscire a sapere tutte queste cose, a saperle proprio tutte, a poterle raccontare anche nello specifico, ci vorrebbe un cervello che non ho assolutamente. E quindi mi documento, vado a cercare nei vari siti per raccontare la storia e ricomporla, va bene? Ok. Perfetto, hai centrato l'obiettivo. Quindi tu ci dai tante curiosità, ci fai rivivere un po' gli anni 80 e non solo, Sì, praticamente. c'ho tanti appassionati proprio di quegli anni, perché diciamo anche che le piattaforme in generale di oggi non tornano mai molto indietro. Sono forse uno dei pochi che racconta la musica di prima. Ora si va molto avanti, nel senso si pubblicano le cose nuove e si va avanti, lo fanno anche gli artisti di un certo tenore. Indietro non si torna molto e quindi magari lo si fa con dei pezzi proprio di filmati, ma non lo si racconta. E allora mi è venuto in mente di dire: ma chissà quanta gente come me sarebbe interessata anche a ripercorrere la storia di vari momenti musicali che sono stati determinanti, perché poi alla fine gli anni 70, come gli anni 80, hanno avuto, da un punto di vista musicale, anche delle cose, delle grandi novità, insomma, sono stati dei periodi musicali anche di sperimentazione, sono usciti artisti che poi sono diventati dei miti, no? Sì. Quindi raccontarli, secondo me, è anche un modo per omaggiare loro perché, a mio parere, se lo meritano, no? E poi perché la musica, c'è bisogno di raccontarla, perché io continuo ancora a dire che la musica di oggi, come succede in tutte diciamo, le arti, comunque si rifà anche molto spesso, cioè se abbiamo la musica di oggi anche grazie alla musica di ieri, e questo è il senso, ecco volevo dire. Certo, io sono d'accordo. Noi nel nostro gruppo editoriale avevamo il nostro mitico Eddie Anselmi, che adesso è al seguito appunto delle squadre diciamo dell'Eurovision Song Contest, però ormai Bella. ha iniziato con il Festival di Sanremo, ma tu hai fatto una cosa ben più larga e ben più diciamo ben più difficile, perché tu ci dai le curiosità e ci spieghi, insomma, che cosa stava succedendo dietro altri festival, quindi non solo dietro il Festival Bar, ma addirittura dietro appunto contesti più importanti, magari meno presenti oggi, però insomma ci racconti per esempio Castrocaro, ci racconti altri festival che hanno praticamente fatto proprio scuola o comunque sono state le palestre dei cantanti di ieri e di oggi. Quindi Sì, se ne vuoi parlare. in questo momento la programmazione è alternata fra la storia del Festival di Castrocaro, che fra l'altro io per raccontarla mi sono affidato a una sorta di sondaggio che feci del tempo fa tramite il mio canale e chiesi quale storia volessero che raccontassi. E allora scelsero Castrocaro perché ancora non l'avevo raccontata. E in questo periodo la sto alternando con un'altra manifestazione di premi che è Vota la Voce. Sì. Tra l'altro sto preparando proprio ora un vlog, quello dell'86, lo sto preparando proprio stamattina. E praticamente racconto, le alterno, sono due storie che, diciamo, raccontano due periodi musicali diversi, perché il Castrocaro ancora l'ho negli anni 60, sto raccontando il Castrocaro degli anni 60, mentre in Vota la Voce sto raccontando il Vota la Voce degli anni 80. L'ho scelti anche perché, siccome si sta avvicinando Sanremo, dove farò di nuovo la storia dei cantanti che hanno fatto Sanremo ma ci siamo dimenticati, dove racconterò il Sanremo che arriverà, e quindi il collegamento Sanremo-Castrocaro, siccome è sempre stato molto stretto, come ricorderai, certo, come no, per molti anni, quindi ho pensato che probabilmente Vota la Voce nel frattempo terminerà, perché col passare del tempo poi si esaurisce, perché finisce nel 2000, e volevo poi nel periodo sanremese continuare la storia di Castrocaro e poi raccontare il Sanremo di ieri e di oggi, nel periodo proprio sanremese, che è quello che di solito nel mio canale c'è molto movimento nel, certo, periodo di Sanremo. Esatto, hai dei grandi numeri, e infatti la cosa mi ha stupito molto, perché sei stato in un crescendo impressionante, anch'io ne ho parlato un po' in giro, quindi la curiosità c'è, sì, e sì, anche per questo ti abbiamo invitato. Senti, ma allora facciamo un excursus, tu parli appunto del disco per l'estate, di Castrocaro, del Festival Bar, secondo te appunto che cosa unisce queste manifestazioni alla nostra musica italiana, perché sono poi così importanti, e poi soprattutto dacci un tuo giudizio su questi festival. Allora, questi festival sono stati importanti perché all'epoca, come ricorderai benissimo, non c'erano i talent, partiamo da lì. Perfetto. Quindi praticamente gli artisti che dovevano presentare dei pezzi lo facevano nei festival o nelle manifestazioni, non c'erano un miliardo di talent come ora, no? Certo. Che sono partiti questi talent, parlo, tutti molto molto bene, e poi si sono persi via via, perché parliamoci chiaro, ormai non riescono quasi a lanciare più niente, no? Perché non funzionano più, la formula è veramente scaduta, a mio parere, un parere mio personale. Per quanto riguarda i festival, quindi un tempo erano l'unica maniera, l'unico veicolo per lanciare un cantante, per lanciare anche a volte anche la canzone, perché il cantante a volte era il veicolo stesso di un pezzo che finiva la sua carriera con quel pezzo, è successo tantissime volte, però in ogni caso le manifestazioni servivano per lanciare o una carriera o per lanciare proprio la canzone, e quindi era l'unico modo per rinnovare la musica, l'unico modo per vendere dischi. Oggi le manifestazioni come festival, come vedi, alla fine racconto le storie, sono quasi tutti chiusi, quasi tutti terminati, non esiste quasi più niente di tutto questo, no? Certo. E io trovo che invece, secondo me, riscoprire la formula della manifestazione di festival come una gara musicale, ma proprio festivaliera, secondo me potrebbe continuare a funzionare. Sanremo ne è un esempio, anche se poi è diventato alla fine uno show televisivo, e la gara canora è un po' in secondo piano, no? Perché poi alla fine sì, è diventato uno show televisivo. Esatto, sembra quasi un Oscar della musica, premiamoli tutti, perché abbiamo... Sì, alla fine sì, perché fra il premio alla critica, il premio al testo, il premio all'arrangiamento, alla fine poi li premiano tanti, quasi tutti, no? Però quello che voglio dire è che probabilmente riscoprire anche il piacere del festival presentato, che anche quello non è un dettaglio, ma presentato bene, non i talent presentati seduti, ma non perché voglio fare il nostalgico, perché secondo me sarebbe bello riscoprire anche uno stile nel fare un festival musicale con il presentatore, proprio fatto bene. I talent, a mio parere, hanno un po' fatto scadere anche il valore, ecco, la sacralità, io direi la sacralità dell'artista, bravo, dell'opera, bravo, bravo, è vero, il presentatore, come insomma l'ufficiale che ti dice ufficialmente hai vinto questo titolo, e insomma, e le giurie, che poi si è capito, perché poi alla fine la giuria siamo anche noi. E senti, però poi questi, tutti questi festival poi avevano il fattore della piazza, perché poi andavano appunto nelle varie piazze delle città in tutta Italia, quindi si facevano conoscere così. Oggi abbiamo i centri commerciali, tu come la vedi questa cosa? Non posso niente. Dunque, no, diciamo che sono i tempi di oggi. Presentare le canzoni negli store rappresenta proprio la vita come va ora la musica. Io in un blog ho raccontato che negli anni 70 e gli anni 80 si arrivava a dei numeri di vendita di dischi incredibili, che oggi è anche impossibile, no? Sì. Parlava di 4 milioni di dischi venduti, 6 milioni di dischi, una roba che oggi veramente è impossibile, no? Arrivarci. Sì. Succedeva perché tutto era concentrato proprio sul disco in sé, no? Perciò se usciva, arrivava l'artista, presentava il disco, te l'aspettavi magari da mesi, finalmente usciva e vendeva 4 milioni di dischi. Certo. Oggi invece ci sono i download, no? Quindi già cambia, il disco fisico è solo per i collezionisti poi alla fine. Io scarico la canzone che mi piace sul telefonino e me la sento quando mi piace a me, no? Sì. Quindi non c'è più neanche la passione proprio del disco in sé, della copertina. Io mi ricordo che sfogliavo i testi. Sì, è diventava un rito, era un rito in pratica, no? Oggi no, oggi alla fine è normale che presentino le canzoni in uno store, perché la musica è diventata un prodotto come può essere quello, il nuovo bagnoschiuma, piuttosto che il nuovo, capito, il nuovo, la nuova moda del momento. E infatti questo lo dimostrano gli artisti stessi, perché per andare avanti, visto che i dischi non se ne vende più fisici, certo, per andare avanti cosa succede? Gli artisti vanno sui social, sulle piattaforme, presentano la nuova borsa piuttosto che la nuova linea di moda. È un esempio forse più eclatante del momento, è proprio la mia grande amica Elodie, che fa proprio questo. Lei fa i suoi video su TikTok, presenta la nuova collana, la nuova borsa, le nuove scarpe, no? Certo. E viene pagata per questo, nel senso che ormai la musica è quella che ti identifica come artista, come cantante, poi però diventi anche venditore di altro, no? Grazie al nome che hai. Esatto, hai un valore aggiunto in più, quindi infatti, cosa che invece prima, se ricordi, non succedeva. Quando usciva un disco della Bertè, usciva il disco della Bertè, punto. Certo, quasi non sapevamo neanche chi la vestiva. Era questo. Magari si sapeva chi l'aveva scritto, no? Tipo Fossati, c'era dietro. Certo, si parlava di musica, no? Si parlava però di musica. Però sapere, cioè, era quasi non ti interessava neanche sapere se per presentare il nuovo look della Bertè c'era dietro un grande stilista. Veniva dopo, ma era una cosa marginale. Ora talvolta è quasi la cosa più importante, no? Quasi più importante del disco alla fine, e questo è il senso. E quindi è normale, tornando al discorso originale, che gli artisti presentino le loro canzoni negli store, perché è diventato tutto una sorta di presentazione di prodotto che purtroppo va molto al di là di quella che è l'arte. Io continuo a dire ancora arte, a volte mi hanno criticato perché ho detto arte anche per alcuni artisti che molti reputavano che non avesse fatto arte, ma io continuo ancora a pensare che se un artista ha fatto una canzone e ha fatto successo al punto di arrivare primo in classifica, qualsiasi canzone sia, indipendentemente, ecco, dallo spessore, è comunque una forma d'arte, io certo, così la penso. Io dico anche che un artista è colui che va sul palco, ci mette la faccia e ci crede veramente, per me è già un artista, quindi anche perché magari tu non sei in grado di farlo, quindi insomma chi sei tu per pregiudicare? Per me un artista è colui che va sul palco e ti offre qualcosa, poi insomma certo, che sia di qualità o meno, sta poi ai critici magari. Però, insomma, sta anche a noi. Anche a noi, perché quello che per me magari è bellissimo per te è orrendo, certo, perché l'arte, come tu sai, è molto personale. Certo. E poi l'artista si chiama artista, di conseguenza fa arte, non c'è verso. Certo. Senti, allora tu hai sviscerato il Festival Bar e devo dire che forse è stato quello più seguito da parte tua. Vota la voce, il disco per l'estate, a parte le reazioni, a quale di questi blog, comunque insomma segmenti musicali ti sei affezionato di più? Io ti dico la verità, sia Vota la voce sia il disco per l'estate che hai fatto, insomma, sì. Cos'è? La Gondola d'Oro, giusto? Ah, è vero, sì, ho fatto anche quella che prima era la Mostra Internazionale di Musica Leggera e poi diventò la Vela d'Oro di Riva del Garda, sì. Esatto, che anche queste curiosità poi lungo tutti i festival. Tu hai ricordato tutti i patron di queste manifestazioni? Sì, fra l'altro guarda, ti dirò una cosa molto curiosa, quando ho fatto la storia del Cantagiro, perché ho raccontato anche la storia del Cantagiro, mi ha chiamato proprio al telefono l'attuale patron del Cantagiro per ringraziarmi, perché loro avevano commissionato a una televisione locale la storia del Cantagiro perché la volevano pubblicare, no? E io non lo sapevo. Perciò da casa mia io feci questa serie dedicata al Cantagiro e mi chiamarono per ringraziarmi e per dirmi anche che a quel punto avevano rinunciato a far produrre il documentario a questa televisione privata perché tanto l'avevo fatto io e quindi non importava. A costo zero, veramente a costo zero davvero, in questo caso qui. E poi altri patron, ci sono stati diversi altri sì che mi hanno contattato, addirittura artisti che mi hanno ringraziato per avergli raccontato la storia. È successo tante volte anche di artisti che per me sono stati importantissimi negli anni 80 che mi hanno proprio contattato per ringraziarmi. Mi sono anche emozionato, una su tutte per dire la Biolcati ad esempio, oppure più un pochino più di recente lo stesso Dario Gai che mi ha mandato un vocale ringraziandomi su Instagram. Insomma, sono diversi gli artisti che mi hanno ringraziato molto, addirittura quando si parla di artisti molto vecchi, i figli che mi ringraziano per aver parlato del babbo, capito? Certo. È molto bello. Perché ti dico, anche il fan club di Mango mi ha detto, insomma, di fatti appunto gli elogi, perché insomma sei stato attento anche per quanto riguarda la storia, insomma, di Mango, proprio gli inizi, insomma, i collegamenti anche al Festival di Sanremo e quanto è stato importante quel 1986 dove lui ha cantato Lei verrà. Ha ricordato i quattro brani che aveva scritto, insomma. Sì, sono tutte queste curiosità che poi arrivano e che non ti aspetti. Senti, però hai avuto anche delle critiche un po' grosse, avevo letto, insomma, seguendo il tuo blog. Ah, sì. Avevo fatto proprio anche un blog io che mi toglievo i sassolini dalle scarpe, te intendi quello. Allora, io sì, diciamo che ci sono, ma pochi, ma quei pochi sono molto, hanno un'espressione molto forte nel dirlo. È chiaro che se uno presenta un prodotto pubblicamente si deve aspettare anche le critiche negative, no? Non solo quelle positive, perché sennò sarebbe troppo bello questo mondo. Però le critiche negative, che io ne ho avute diverse, ma anche fatte con educazione, con garbo, o anche costruttive, allora quelle sono le critiche negative che preferisco. Certo. Ci sono dei miei iscritti, ad esempio, che hanno iniziato a approcciarsi con me criticandomi in maniera costruttiva e poi alla fine sono diventati i miei iscritti e i miei affezionatissimi. È vero. Sì, perché hanno fatto delle critiche fatte bene, costruttive, molto belle, dove anch'io ho imparato ulteriormente qualcosa. Io mi danno fastidio quelle che arrivano solo ed esclusivamente per distruggere inutilmente poi il lavoro di una persona che presenta un prodotto, senza poi parlare della critica in sé, senza neanche dire il perché. Certo. Solamente per il gusto magari di distruggere, no? Allora, quelli sono quelli che non mi piacciono molto, che fra l'altro non capisco neanche un granché, perché non capisco quale sia il piacere, insomma, di dover fare una critica, Beh, a io volte sono. anche offensiva, a volte anche offensiva, e l'ho dovuta togliere in alcuni casi, te lo dico. Beh, dai, come Sanremo divide appunto il pubblico, Sì, è vero. anche tu hai diviso insomma un po', diciamo anche la critica e anche chi usufruisce del web. Allora, ricapitoliamo, tu hai questi tuoi appunto blog, dove ti si vede? Su YouTube, giustamente, ma non solo, su Su Facebook, YouTube, dove ti troviamo, Alessio? allora io personalmente mi trovo su tutti i social, che siano YouTube, Facebook, Instagram, diciamo addirittura su Twitter. Su TikTok, in realtà io faccio solo una pagina dedicata alle mie piante nel terrazzo, a dire la verità, su Ti sei TikTok. occupato di quest'altra cosa? Sì. Non lo sapevo perché non vedi TikTok. Siccome sono anche un grande appassionato di piante, allora io su TikTok riprendo le mie piante, perché a mio parere è Tu un sei così, tanto sappiamo, tu sei così molto alla mano, quindi insomma, un amicone di tutti, diciamo. sì, ma assolutamente sì, anche perché io mi piace molto il confronto, mi piace molto anche la conversazione, come tu Il vedi. Infatti, contatto con le il persone, contatto con le persone, stare certo. insieme alle persone, parlare delle cose, mi piace moltissimo, mi rende la vita molto più bella. Io non sono un solitario, assolutamente no. Assolutamente no. No. E quindi dicevamo che praticamente tra tutti questi appunto, tutte queste attività, però tu ti vediamo su YouTube anche con un video, vero? Anzi, con più video, perché tu anche canti. Sì, è vero. Allora, sì, te la dico velocemente. L'attività canora inizia intorno all'83-84. La prima canzone che cantai nella mia vita in un concorso fu Per noi innamorati di Gianni Togni. E da lì ho iniziato a fare il concorso di voci nuove e tutto. Allora, io ho inciso un singolo nel 90 che doveva fare il Festival di Sanremo, Fai nuove proposte. Poi ho fatto un altro singolo per la Ricordi l'anno successivo, che vinse un festival europeo, e poi, fai conto, alla fine degli anni 90 fino a gran parte degli anni 2000, ho fatto parte di un gruppo metal molto bello, veramente eccezionale, che si chiamavano Wonderland. Ero il cantante, si incidevano i pezzi, che ovviamente metal, però era un metal molto elegante. Se poi a modo di sentire, vai a sentire, era un metal, era un po' come se gli Spandau Ballet facessero il metal, ecco, era giusto per dirti. Quindi non era un metal cattivo, ma poi se conosci la mia voce, infatti non è Muro, possibile. vogliamo dire quelle cose un po' melodiche, un Mo rock. era molto melodico, aveva la base metal, ma molto melodico, e questo era un power metal molto melodico, è andato avanti fino al 2005. Poi io ho fatto una pausa perché mi sono dedicato di più alla musica dal vivo, ho girato un po' il mondo cantando per i cantanti all'estero, perciò ho visto un po' di mondo, era una voglia che avevo io personalmente. E poi sono tornato e ora sto collaborando con un autore siciliano bravissimo, che poi in realtà è un poeta della musica, scrive dei testi bellissimi, molto poetici. E mi ha scritto gli ultimi pezzi che ho pubblicato, tipo Come il vento con le rose, tipo Il grande inganno, e ora sta per uscire. Guarda, te lo dico in anteprima, poco prima, io penso che uscirà entro la fine di novembre, primi di dicembre, la nuova canzone, che si intitola Fragile e forte, che è un pezzo molto molto bello, mi piace tantissimo, cioè forse fra tutti quelli che ho registrato di quest'autore è quello che amo di più. Beh, citiamo l'autore a questo punto. L'autore è Fabrizio Clementi, che ha scritto testo e musica, ed è questa canzone che uscirà, una canzone prettamente gay, perché racconta la storia di un uomo che è stato lasciato dall'uomo suo ed è rimasto lì. Solo perché non se l'aspettava, ed è un pezzo d'amore proprio molto rainbow, questo è assolutamente va bene, c'è anche questa realtà. Senti. No, l'ho voluto, anzi lo sottolineo volentieri in questo periodo a mio parere, perché c'è bisogno di sottolineare più volte questo discorso dei diritti, dei diritti civili, io continuo ancora a parlarne, sì, dimmi pure. Allora, a questo punto tu hai fatto il Vota la Voce, il disco per l'estate, se non sbaglio, il Festival Bar, Festival di Sanremo, perché ne stai, continui a parlare, a quando sì. Farai il Winner, cos'è il Winner Team Festival, e questa cosa qui che secondo me non è paragonabile insomma a tutti questi altri festival, però adesso c'è questa cosa qui, tu ne parlerai? Io bisogna che mi documenti su quello, perché sinceramente non lo conosco molto, non so neanche, a dire la verità, in che anno è iniziato, non saprei. Vabbè, ci documenteremo. Ci documentiamo. Esatto, mentre per quanto riguarda, no, il Festival Bar, intanto ancora oggi non capiscono perché appunto si sia chiuso il Festival Bar, e tanti hanno nostalgia appunto di soprattutto sì. Il Festival Bar d'estate, giustamente, lo vogliamo dire ai nostri spettatori? Allora io te lo dico in base alle notizie che so, sì, perché certo. Non posso essere la certezza, veramente no, però si racconta nell'ambiente che il motivo principale per cui non ricomincia è perché il marchio Festival Bar è rimasto all'ultimo proprietario, che io se non vado errato è il figlio di Salvetti, sì, che non lo rivende, cioè no, se lo tiene ma non lo cede, lui non vuole, non lo rifà il Festival Bar, però non vuole neanche cedere il marchio e di conseguenza non ricomincia. Ho capito, bene, quindi finalmente una volta per tutte abbiamo dissipato questo dubbio, perché poi sì. Tanti ascoltatori me lo chiedono anche a me, è tuttora, e quindi anch'io non sapevo che cosa rispondere, ma questo ufficialmente appunto è la giustificazione. Sulla sì. Voce, che era praticamente questo concorso invece legato a Sorrisi e Canzoni, appunto c'era questa cartolina in cui sì. Appunto si votava, è bellissimo anche il fatto che tu, oltre al vincitore, parli della rosa, no? dei cantanti di quell'anno, e quindi tu esponi bene insomma che quale cantante, maschile, femminile, insomma, o gruppo, e poi tutti gli altri a coronamento, e quindi rifai la storia. Quindi praticamente tutte queste curiosità e soprattutto il vantaggio, comunque la cosa curiosa tua è proprio che rifai anche gli anni 60 e 70, di cui molti si sono dimenticati o si sa poco, e quindi tu dai, diciamo, una trasversalità di oggi, ai ragazzi di oggi, che sanno appunto e vanno a scoprire i cantanti dei nostri genitori, in pratica. Eh sì. Quello è molto molto lontano, cioè nel senso, lì pubblicare su una piattaforma come YouTube la storia di qualcosa degli anni 60 è come parlare della preistoria e dei dinosauri, è davvero. Certo. Però è molto, ora i ragazzi più giovani non credo che seguiranno, però può essere molto, ci può essere l'appassionato di musica che vuole andare un po' indietro, io gli do la possibilità di farlo in maniera non proprio approfonditissima, a volte un po' più superficiale, perché raccontarla in maniera approfondita sarebbe anche troppo noioso, secondo me, do la possibilità di poter tornare un po' indietro e farsi una cultura generale, chiamiamola così. Si fa un'idea, diciamo, una persona. Sì. Sei bravissimo, perché anche trovi dei filmati storici addirittura, mi hai sorpreso più volte, perché sei andato a scartabellare delle cose che io mi sono detto, ma cose che non rivedevo più, penso, da quando ero piccolo, quindi come hai fatto? È proprio una ricerca, come hai fatto? In alcuni casi mi ha aiutato, ci sono dei siti che mi seguono da diverso tempo e che mi aiutano, mi mandano proprio i filmati. Anche iscritti che hanno un repertorio di filmati molto ampio me lo inviano, mi inviano i filmati. In alcuni casi li vado a cercare proprio io nelle varie teche, a volte anche le teche Rai, perché c'è una parte di teche Rai che sono accessibili anche al pubblico normale, e quindi io vado a cercare proprio in base all'argomento quello che ho bisogno e tutto. E cioè, ci sono però delle regole, che sono delle regole quando il filmato, diciamo in questo caso, non è il tuo, anche se hai il permesso di poter pubblicare, perché te l'hanno dato questo permesso. Ci sono però delle regole, tipo non puoi superare determinati secondi, perché ci sono delle regole da rispettare quando si fanno dei documentari. Però diciamo che sono molto aiutato nei filmati, ci sono tanti appassionati che mi aiutano in questo, sì. Quindi una fortuna, vedi che appunto diciamo anche appunto a essere veramente poi facilitati, perché poi praticamente diciamo è una sorta di biografia del nostro paese, della cultura musicale del nostro paese. E quando ti darai alle biografie, perché a questo punto magari uno si attende anche le biografie sui singoli cantanti, come un album da sfogliare. Bello, sì, molto bello, sì, lo voglio fare anche sui cantanti che andranno a Sanremo quest'anno. Sì. E voglio dedicare proprio a ognuno di loro un vlog, tutti quelli che poi sceglierà Amadeus, li voglio dedicare proprio la biografia di coloro che fanno Sanremo quest'anno. L'ho già fatto una volta, sì. Perfetto. Allora senti, se ti servirà supporto per quanto riguarda o Mango o Garbo, io ci sono, chiedi. Va bene, perché poi alla fine troviamo sempre magari delle cose curiose da raccontare poi ai nostri ascoltatori, perché poi veramente in pochissimi vige sempre questa regola, no? In pochissimi sanno che magari un cantante è ancora in attività perché non lo vedono in TV, e questo è grave. Certo, sì, ci sono tanti artisti, tipo Alberto Camerini è un esempio eclatante. Certo. Farà 150 serate l'anno, ma tutti pensano. Pochi lo sanno, pochissimi. Anche perché lui, proprio parlando proprio di lui, era un personaggio televisivo. E l'hanno scoperto musicista solo dopo, quando il successo è venuto meno, perché poi è un bravissimo musicista, ma tutti se lo ricordano come l'Arlecchino, ma l'Arlecchino è un po' restrittivo, perché lui è un grandissimo musicista, veramente bravissimo. A fianco di Battiato, ancora ai tempi, insomma, di Renudo, quindi negli anni 70, e poi suonava, appunto, faceva il turnista in pratica. Sì, bravissimo lui. Comunque, visto che parlavi di Garbo, ti posso dire la mia canzone preferita di Garbo, che è assolutamente Cose Veloci. Sarei d'accordo con me che è bellissima, che è la canzone. Sanremo 85. Arrivo ultimo, credo. Glielo rifarò appena lo sento. Arrivo ultimo a quel festival di Sanremo, ma solo perché secondo me era troppo avanti, era questo il motivo. Per certi versi sì, perché comunque Sanremo doveva accontentare uno spettro tanto largo che prendeva i giovani e insomma fino agli anziani, insomma. Poi all'epoca era molto nazional popolare, il Sanremo dell'85. Sì, era molto diverso rispetto ad oggi, sicuramente. Assolutamente sì. Allora io che devo dirti, se volete iscrivervi al mio canale, Alessio Del Freo, musica e vlog. Certo, allora questo è il tuo canale su cui appunto uno si può andare a vedere, si può iscrivere, e insomma sì. Adesso hai anche il supporto della nostra radio, quindi ne parleremo ai nostri ascoltatori ben volentieri, e poi ti sosterremo nelle nostre puntate. Che dire, allora in bocca al lupo per questo tuo insomma progetto, e poi insomma ci sentiamo magari con l'anno nuovo a commentare il Festival di Sanremo. Sono d'accordissimo, assolutamente sì. Allora, un grazie, un abbraccio ad Alessio Del Freo, andate a vedere i suoi video, anche le sue cose musicali, perché insomma tu ancora incidi, ascolteremo sì. Questo nuovo singolo di cui ci hai parlato, in bocca al lupo allora. Grazie tante. Grazie a te, ciao e alla prossima. Buona giornata, ciao. Easy Pop è il salotto musicale di Radio Città Fucico, un programma di Franco Paoletti, in onda la domenica pomeriggio dalle ore 15 alle 16, per ascoltare musica indipendente al 100%. Non ti perdere il nostro appuntamento.